Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo in apertura un titolo di narrativa di una scrittrice che ha acquisito una sua corte di affezionati lettori in Italia e non soltanto. Si tratta di Irene Nemirovsky, di cui avevamo anche presentato qualche mese fa Jezabel. Il titolo questa volta è Il calore del sangue, pubblicato da Adelphi, 156 pagine, 11 euro, tradotto da Alessandra Berello. L'autrice, come forse ricorderete, è una scrittrice ebraica originariamente di Kiev, nacque nel 1903, che dopo essersi convertita al cattolicesimo fu internata ad Auschwitz, dove morì nel 1942, poche settimane dopo la cattura e l'internamento per una crudele beffa del destino. Il libro che oggi vi presento è un romanzo breve ambientato nella profonda provincia francese. Il protagonista qui è un misantropo spiantato dalla giovinezza molto avventurosa che racconta una storia che con lenti giri fa affiorare particolari abbastanza torbidi e inquietanti che rendono assai meno idilliaco di quanto non sembri a prima vista il clima della provincia e dell'ambiente chiuso della campagna francese. Testimoniano lo stile della Nemirovsky queste righe che adesso vi propongo, che ci presentano il tema della passione, di quella passione che divampa a 20 anni. Non rimpiango il tempo perso in cerca di fortuna, a comprare cavalli in Canada, a trafficare in olio di cocco nel Pacifico. A 20 anni la voglia di andarmene e la noia soffocante della provincia mi attanagliavano al punto che se mi avessero costretto a restare qui, ne sarei morto, credo. Mi si infiammava il sangue al pensiero del vasto mondo che brulicava di vita, mentre io me ne restavo qui. Partii, e oggi non riesco a capire quale demone abbia potuto spingere un tipo come me, selvatico e sedentario, lontano da casa sua. A 20 anni, come ardevo! Come mai dentro di noi si accende un fuoco simile? Una fiammata che travolge ogni cosa nel giro di pochi mesi, pochi giorni, e a volte poche ore. Poi si spegne e non resta che fare il conto dei danni. Ci si scopre insieme a una donna che non si ama più, oppure, come nel mio caso, si finisce in bancarotta, o ancora, pur essendo nati per essere droghieri, ci si è fissati di voler fare i pittori a Parigi e si muore in un ospedale. Chi non ha visto un fuoco simile deformare e piegare inaspettatamente la sua vita, in un senso opposto a quella che è la sua natura autentica? Di certo sbaglio a generalizzare. Esistono persone di 20 anni sensate e ragionevoli, ma alla loro saggezza preferisco la mia follia di un tempo. Nei mesi passati Irene Nemirovsky è stata al centro di una grande e postuma polemica che è partita dagli Stati Uniti e poi è approdata soprattutto in Francia. L'occasione di questa polemica è stata l'apertura di una mostra che durerà quasi un anno, si chiuderà infatti al 30 di agosto a New York al Museum of Jewish Heritage, che è dedicata appunto alla scrittrice. Ma in questa occasione sono appunto divampate le polemiche per le accuse che sono state rivolte alla stessa Nemirovsky, che ricordo morì in un lager nazista, di antisemitismo. E un libro in particolare è stato additato come espressione di questo presunto sentimento della Nemirovsky contro gli ebrei, David Golden, che è appena uscito, riproposto in queste settimane sempre da Adelphi. Il libro ha 184 pagine, costa 11 euro ed è stato tradotto da Margherita Belardotti. In questo libro si parla di un vecchio uomo d'affari ebreo, ricchissimo, senza scrupoli, avido e arido, capace soltanto di avere qualche barlume di umanità nei confronti della figlia che viceversa gli vuole soltanto succhiare le ricchezze, in questo imitato e seguito dalla madre. In effetti, in questo libro della Nemirovsky gli stereotipi antisionisti ci sono tutti, ve ne voglio dare una piccola antologia. A un certo punto si parla di un personaggio e scrive la Nemirovsky: il naso, soprattutto, non aveva mai avuto quella forma prima, pensò, enorme, adunco, in tutto simile a quello di un vecchio usuraio ebreo. E poi ancora, la presentazione di Golder, avviluppato in una palandrana grigia consunta con una sciarpa di lana intorno al collo e in testa un logoro cappello nero, assomigliava singolarmente a un vecchio rigattiere ebreo di un villaggio ucraino. E poi una polemica fra marito e moglie. Sei un bruto, prese a berciare lei. Un bruto, una bestia, non sei cambiato. Sì, sei rimasto l'ebreuccio che vendeva stracci e ferragli a New York con il fagotto in spalla, te lo ricordi? E lui le risponde: e tu ti ricordi Kishinev, la bottega di tuo padre, l'usuraio nella strada degli ebrei? A quei tempi non ti chiamavi Gloria, eh? E ancora Golder viene presentato in questo modo: David Golder, a Londra, Parigi, a New York. Dire David Golder significava fare il nome di un vecchio ebreo spietato che da quando era al mondo era stato odiato e temuto e aveva annientato quelli che gli si opponevano. Poi c'è la presentazione di Soifer, una persona con la quale Golder passerà alcuni momenti dopo gli anni del grande successo, un vecchio ebreo tedesco di un'avarizia che rasentava la follia, abitava in un sordido appartamento ammobiliato, non metteva mai piede su un taxi, nemmeno quando un amico si offriva di pagare. Non voglio, diceva, prendere delle abitudini al lusso che poi non mi posso permettere. Lo stesso Soifer fa un'osservazione sintomatica al suo amico Golder: che sordidezza giudea è. Insomma, come leggete, se non fossero appunto parole scritte da una scrittrice ebrea, ci sarebbe da saltare sulla sedia. E infatti una rivista americana ha scritto a proposito proprio di questo libro, alimentando la polemica di cui vi dicevo prima: sarebbe troppo dire che un simile libro pubblicato in anni simili fu complice, come molti altri libri del genere, nel degrado morale della cultura che divenne una delle cause dell'imminente genocidio. Questo libro infatti, ricordiamolo, era del 1929. A queste accuse hanno risposto i biografi della scrittrice, Olivier Philipponat e Patrick Leonard, di cui viene presentato un breve saggio a conclusione del primo libro di cui vi ho parlato, Il calore del sangue, e i due saggisti smontano le accuse rivolte alla scrittrice e hanno sostenuto, per difenderla, che in realtà la Nemirovsky utilizzava queste espressioni, utilizzava questo stile esclusivamente per una satira autoironica, e ricordano come la stessa scrittrice avesse affermato, proprio a proposito di David Golder, il libro di cui stiamo parlando, che ella avrebbe scritto il libro in modo diverso se consapevole dell'ascesa al potere di Hitler. Insomma, le polemiche sono molto interessanti, ma anche il libro ve lo consiglio perché è un piccolo capolavoro, e non a caso questo libro, David Golder, fu quello proprio che diede la fama alla scrittrice. Abbiamo ricordato nei giorni passati il trentennale della rivoluzione comunista in Iran. In questa occasione vi voglio ricordare il libro di Shirin Ebadi, che è la scrittrice appunto iraniana che ha vinto nel 2003 il premio Nobel per la pace per la sua campagna a favore della democrazia nel suo paese, per i diritti delle donne. Il libro dell'Ebadi si intitola La gabbia d'oro, tre fratelli nell'incubo della rivoluzione iraniana, è pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 18,50 euro, ed è tradotto da Ella Mohammadi. Il libro narra la storia di due famiglie che passano dall'Iran dello Shah alla teocrazia comunista, vivendo sulla propria pelle prima le illusioni e poi le tragedie della rivoluzione. E si tratta quindi di una testimonianza drammatica, anche di un grande abbaglio di chi, come l'autrice stessa, aveva sperato che la Repubblica Islamica portasse la fine della dittatura e la democrazia, una speranza che sarebbe andata presto delusa, come testimoniano le righe che vi propongo da questo libro. Khomeini approfittò della debolezza del governo di transizione per rafforzare le posizioni dei religiosi e garantirsi una schiera di fedelissimi. Assunse il controllo delle ricchezze di Pahlavi, con le quali manteneva i Pasdaran, le nuove guardie rivoluzionarie che volle affiancare all'esercito. Il 30 e 31 marzo la popolazione fu chiamata a un referendum per decidere se voleva la Repubblica Islamica, che fu approvata con un improbabile 98% dei voti. Khomeini fu nominato guida suprema e assunse in poco tempo il pieno controllo sul paese. La nuova Costituzione affidava la sorte dell'Iran alle mani di poche persone. La situazione è rimasta da allora pressoché immutata. La guida suprema, un esponente religioso, detiene di fatto i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo e non deve risponderne al Parlamento, al popolo o a qualche altra istituzione, anche se l'articolo 5 stabilisce che il popolo debba riconoscere la guida con un'ampia maggioranza. È però il Consiglio di discernimento a nominarla. un organo composto da un gruppo di esponenti religiosi eletti dal popolo all'interno di una lista compilata dal Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione. Il Consiglio dei Guardiani ha un enorme potere. I membri del Parlamento o il Presidente della Repubblica sono eleggibili solo dopo l'approvazione del Consiglio, che in più può esercitare un diritto di veto sulle leggi approvate in Parlamento, se ritiene che violino la Costituzione o i principi islamici. Siccome tra i musulmani ci sono sempre state divergenze di opinione sui principi fondamentali dell'Islam, per il Consiglio dei Guardiani è semplice respingere qualunque legge poco gradita. Non stupisce che un assetto costituzionale così blindato e autoreferenziale non abbia portato alcuna democrazia in Iran, né che la Repubblica Islamica abbia ucciso ogni sogno di libertà. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso all'Italia di oggi con un romanzo di Giuseppe Culicchia, Brucia la città, è pubblicato da Mondadori, 410 pagine, 19 euro. Questo romanzo ci porta a Torino, nella Torino scintillante degli ultimi anni, quella della movida, del grande rilancio favorito dall'occasione olimpica che suscita tanta ammirazione non soltanto in Italia. Una città dunque alla moda, scintillante, nella quale si consumano le vite, nel romanzo, di un gruppo di giovani ricchi, dalle incerte ma comunque lucrose professioni, capaci anche di infinocchiare le autorità pubbliche pur di portare a casa qualche quattrino, eticamente indifferenti, inclini alla coca, non cola, dipendenti dal sesso ridotto a routine. Un mondo di ragazze, scrive Culicchia, tutte con la frangia come quella tipa del Grande Fratello, un tatuaggio tribale nel fondo schiena. Culicchia usa un altro termine. Insomma, una galleria di vite inutili, in famiglie inesistenti e in una città indifferente, tra feste, inaugurazione di mostre d'arte contemporanea, localini alla moda, ristoranti, ricerca ansiosa dell'ultimo marchio di moda. Una bella testimonianza questa di Culicchia, non solo sulla condizione giovanile, ma soprattutto su una città che lo scrittore ci fa vedere con occhi diversi da quelli un po' agiografici ai quali ci siamo abituati negli ultimi mesi. Ma sentiamo su questo libro e sulla Torino d'oggi una testimonianza di un torinese pressoché coetaneo dello scrittore, che Torino conosce molto bene, sia perché è stato lì imprenditore, anche amministratore pubblico, e ora è un protagonista della vita intellettuale con una galleria d'arte che porta il suo nome, Ermanno Tedeschi. Buongiorno a Ermanno Tedeschi. Buongiorno. Ermanno Tedeschi, allora, questo libro su Torino dà un quadro insolito e abbastanza diverso dalle cronache, da come siamo stati abituati a vederla in questi ultimi anni. Ma com'è Torino? Come racconta questo libro? Allora, Torino è una città che si è molto trasformata in questi ultimi 5 anni, direi, ancora prima anche delle Olimpiadi, che comunque hanno segnato sicuramente un momento di grande trasformazione per la città. È sicuramente una città molto viva, e molto più viva di quello che sembra anche l'apparenza. Quello che traspare anche dal libro di Culicchia è proprio questo, di una città comunque viva e la cui vivacità spesso non si vede. Si pensa che i torinesi siano tra di loro, in casa, invece c'è una vita molto, molto accesa, molto vera, ecco. Dietro questa movida nel libro di Culicchia c'è anche una gioventù quasi bruciata, si sarebbe detto una volta. Io quello che ho un po' così, trovo questo libro interessante anche perché si rivede Torino, si vede una città così vivace, una città che si muove. Devo dire che forse non ne dà un'impressione di una gioventù così pulita, ecco. Certo. Il che non è proprio così, perché c'è una gioventù torinese che si muove, che è attiva nel campo dell'arte, che si diverte, che frequenta i locali, ma che comunque non fa uso continuo di sostanze stupefacenti come magari traspare dal libro di Culicchia, e che magari ha una sua morale che è un po' diversa da quella che traspare in questo libro. Poi esistono anche queste cose. Secondo lei perché ha esasperato questi toni Culicchia in questo libro? Ma probabilmente per romanzare un po' il suo libro, per renderlo forse un po' più accattivante. Peraltro si parla anche di una gioventù ricca, sì. Perché si parla di giovani che frequentano ristoranti, che hanno macchine di un certo tipo, che hanno fanno le vacanze in determinati posti. C'è una gioventù torinese che non è così ricca, che però vive la movida, diciamo, sia culturale che non culturale, e che esiste, che forse è il vero, è la maggior parte, è il cuore pulsante della città. Poi ci sono tanti problemi, come ci sono in tutte le grandi città, ecco. Senta, molto spesso in questo libro emerge una specie di senso di rivalsa nei confronti di Milano. Sembra di stare a Milano, a un certo punto dice il libro, di un personaggio, dice, con un'aria da milanese imbecille. Ma Torino vive ancora la rivalità con Milano in questi termini, secondo lei? Secondo me no. Secondo me la rivalità con Milano è finita. Nel senso che poteva esserci un po' di anni fa, però io parlo per esempio per il mondo che conosco molto bene, che è quello dell'arte, dove Torino oggi ha un parterre che secondo me può veramente vantarsi di avere, e che probabilmente Milano oggi non ha. Parlo delle varie fondazioni private che sono anche d'arte, che sono anche citate nel libro di Curicchia, nei musei, nelle continue inaugurazioni di mostre importanti, di eventi culturali e artistici che ci sono. Senta, restiamo su questo tema dell'arte contemporanea, di cui appunto lei è protagonista a Torino e non soltanto, anche a Milano e anche a Roma. Ma ecco, l'arte contemporanea, questo mondo, le gallerie, i musei, eccetera, nel libro di Curicchia assurgono un pochino a momento molto modaiolo, ma al di là di quello che poi è il contenuto vero, effettivo, di quel contenuto artistico che dovrebbe avere l'arte contemporanea, ecco, c'è questo aspetto molto di moda, di glamour, ma poco di sostanza, e purtroppo emerge questo dal libro. È così anche questo, ecco, mondo. Lei dirà di no sicuramente, ma ecco, un aspetto che è un po' contesto del libro, nel senso che è vero che le inaugurazioni delle mostre hanno un aspetto modaiolo, però quello che mi è un po' dispiaciuto è che non emerge invece la sostanza. Torino è comunque, ha creato delle tendenze nell'arte, dall'arte povera, e città in cui vivono molti artisti contemporanei importanti, e anche artisti che sono venuti a vivere a Torino, perché a Torino c'era un'area diversa da altre città. Devo dire che esiste l'area modaiola, come c'è anche a Roma molto, cioè l'idea di andare alle inaugurazioni e nelle varie gallerie è diventato un momento di social, diciamo, di pubbliche relazioni, però c'è anche dell'altro, non c'è solo questo. Ecco. In conclusione, lei consiglia la lettura di questo libro per capire un pochino la Torino di oggi? Sì, non è esauriente per capire Torino, bisogna sempre pensare che si tratta di un romanzo, che non è una guida turistica, certo, né per le gallerie, né per i ristoranti che vengono citate spesso, né per le fondazioni, ecco. Bisogna cercare secondo me di leggerlo soppesandone i contenuti. E poi magari andando a Torino. Grazie Ermanno Tedeschi. Prego. Arrivederci. Arrivederci. Restiamo in Piemonte con un libro di tutt'altro genere, che è La storia del Piemonte, dalla preistoria alla globalizzazione, di Alessandro Barbero, pubblicato da Einaudi, 528 pagine, 42 euro. Questa è una lunga e documentata storia di una regione il cui nome ha definito un territorio a geometria variabile, per così dire, con vari lembi del territorio stesso conteso fra varie signorie. Ma questo territorio comunque è rimasto sempre centrale nella storia d'Italia e anche nei cambiamenti che hanno caratterizzato lo sviluppo economico e sociale del nostro paese. E il libro ci accompagna fino ai giorni nostri, affrontando anche temi coi quali la città di Torino e tutta la regione si stanno misurando in questi anni: la deindustrializzazione, i cambiamenti degli equilibri politici, l'impatto dell'immigrazione, tutti elementi che contribuiscono a un periodo di grande incertezza sul futuro della regione, e temi che in fondo riecheggiano molti degli spunti contenuti anche nel romanzo di Curicchia, che descrive appunto la Torino di oggi. Una città fiera della sua storia e della sua grandezza, ma che col Piemonte ha dovuto per un lungo periodo anche fare i conti, o anzi convivere, è Genova, sulla quale vi segnalo il libro di Aldo Padovano, Storia insolita di Genova, dalle origini a oggi, è pubblicato da Newton Compton, 526 pagine, 20 euro. Il sottotitolo è esplicito, le vicende, i personaggi e gli aneddoti di 25 secoli, dalle origini etrusco-celtiche alle imprese del Medioevo fino all'affermazione come primo porto d'Italia. Ci viene presentata quindi la storia di questa città nobile e seducente, dotata di un fascino particolare che la fa paragonare dall'autore all'oro nascosto, perché sempre così gelosa scrive dei suoi tesori e delle sue bellezze tenute rigorosamente celate. E ci sono qua tanti episodi e molte illustrazioni che ricostruiscono la storia di una città così importante per le vicende della nostra nazione, ma anche per il successo del capitalismo occidentale. Non dimentichiamo infatti il ruolo che Genova svolse soprattutto nel Cinquecento, quando diventò in pratica il controllore delle finanze e dell'economia spagnole, tanto da far dire a un poeta spagnolo di quell'epoca che l'oro nasce nelle Indie, muore in Spagna ed è sepolto a Genova. E a questo punto... Il confettino. Oggi vi segnalo non un libro ma una mostra che appassionerà grandi e piccini, sicuramente anche i grandi, che rievocheranno la loro giovinezza e le loro prime prove di lettura. Si tratta della mostra dedicata al Corriere dei Piccoli nel centenario della fondazione. La mostra è in corso a Milano, alla rotonda di via Besane, è curata da Giovanna Ginex, il catalogo è pubblicato da Schirà. Si divertiranno quindi i genitori che riconosceranno i giornalini che leggevano da piccoli o i nonni, ma anche i bambini. Fra l'altro i bambini avranno accesso la domenica a dei laboratori gratuiti nei quali potranno imparare a fare i propri fumetti. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Passo la linea a respiro di Laura Bettini, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.